Quando si parla di strutture paranoide, di solito le persone dicono: meno male che non ce l'ho, a posto, quindi parliamo neppure. E sono tutte varie. La struttura paranoide è una struttura universale che ci riguarda tutti. Noi continuamente distorciamo. Perché distorciamo? Ma è ovvio. Se abitiamo qui non distorciamo, perché cogliamo la realtà, l'offerta del mondo. Ma se abitiamo qui è tutto distorto. Quindi i nostri occhiali sono già completamente, deformano tutto. Poi possiamo essere paranoici in senso clinico, nel senso che abbiamo i deliri di persecuzione. Oppure possiamo essere dei dilettanti. La paranoia è una brutta bestia, ce l'abbiamo tutti. E bisogna, come si fa a conoscere la paranoia? Bisogna andare dagli artisti della paranoia, da coloro che sono i grandi della paranoia. Io ho avuto fortuna di averne incontrati alcuni, quindi mi hanno generosamente fatto capire, mi hanno fatto da insegnanti e da maestri su cos'è la paranoia. E ancora recentemente, ieri, ho letto un'email che mi è arrivata, che era un capolavoro. È stata una ragazza con cui ho parlato un po' di anni fa, con cui veramente ho dedicato tantissimo tempo, tantissimo amore, tantissime cose. E mi arriva una lettera in cui mi dice che io ho ucciso le sue speranze e i suoi sogni. Insomma, mi ha trattato da assassino. Ecco, la mia prima reazione, dopo aver letto questa cosa qua, è stata una reazione paranoica. Cioè, di fronte alla paranoia, sviluppo lo stesso tipo di pensiero. C'è un pensiero così. Anch'io vado a leggere questa frase, dici, tu mi dici che io sono stato un assassino. Dopo, e io ho fatto di tutto per lei, ho fatto l'impossibile. E quindi la paranoia cosa mi fa? Per portare a fare? A giudicare questa persona. A giudicare. A proposito, i paranoici sono gli esperti più grandi al mondo del giudizio morale. Loro sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi, il gioco paranoide cosa induce nell'altro? Una reazione dello stesso tipo. Quindi è una cosa che si diffonde. Fortunatamente, poi vi dirò perché, non ho risposto così. Dopo poco ho allargato la visione e ho visto che dentro quelle parole c'era un dolore infinito. Dolore di che tipo? Il solito dolore che provano gli esseri umani, poi gli danno tante parole, ma ce n'è uno solo. Una ferita d'amore. Una ragazza che è stata ferita da bambina, ha cercato in me la figura paterna, ha creduto di trovarla, ma siccome io non sono suo padre e non ho nessuna intenzione di farla papà, nessuno al mondo, a un certo punto lei si è dovuta arrendere, io non ero disponibile a fare quella parte lì, cioè di prenderla come fosse una bambina di 3 anni, levarla, e quindi l'ho mandata da una terapeuta di Genova che l'ha fatto invece, ma lei lo voleva da me, e quindi mi manda questa lettera. E allora cosa ho fatto? Sono uscito dalla reazione al tunnel che avrebbe determinato in me solo della rabbia, del risentimento, ma come? Ti ho dedicato tantissimo tempo, in modi e tutto, e tu rispondi così. Ma questa sarebbe stata una risposta veramente miope e dello stesso stile di pensiero con cui era scritta la lettera. Lo stile di pensiero paranoide è contagioso, ve lo dico, perché se frequentate i paranoidi è facile che dopo un po' incrementiamola, incrementate la vostra paranoia. Abbiamo avuto anche questa esperienza interessante nella vita. Noi avevamo avuto una persona che aveva delle strutture paranoidi e a un certo punto io l'avevo come affidata a un'altra persona che era più grande, più adulto, molto saggio a vedersi, che aveva avuto tantissime esperienze nella vita. E ha detto: guarda, occupatene un po' più te, perché vive a casa tua, insomma, mi raccomando, dimmi come stanno le cose. Sapete com'è andato? È diventato paranoide anche lui. Non c'è stato più niente da fare, abbiamo perso tutti e due. Eravamo un 30, un estremo una volta, a cercare di come possiamo risolvere questo problema. L'abbiamo chiamato, abbiamo cercato tutti quanti, ma non solo, non io, ma gli altri, cioè vedere se era possibile fare qualcosa. Niente, più niente da fare. Paranoide chiude, paranoide. Più chiude le porte è spietato. Perché? Perché ha una visione al tunnel. vede soltanto quella cosa lì e tutto il resto per lui sono dati. Quindi il paranoide è spietato completamente, totalmente, è spietato con gli altri quando entra nella sua proprio... Faccio un altro esempio, c'era un mio amico che ha una moglie, capita roba, e sua moglie ha una sorella, che questo è un fatto comune, che non farebbe notizie, perché molte persone hanno sorelle e fratelli. Beh, a lei è una sorella, e questo invece sto per dire che è diventata paranoide a un certo punto. Questa mia amica, che la moglie del mio amico, tutti i giorni passava un'ora a telefono, anche più di una volta al giorno, a sentire i suoi deliri. Tra l'altro lei è una ricercatrice all'università. E per lei, ovviamente per questa mia amica, sentirla al telefono è molto pesante, era una grande fatica tutti i giorni, sapete, aveva due figlie da allevare, alla scuola, insomma, e in più dedicava un'ora al giorno, anche lì, a sentire quest'altro. E lei gli parlava, e questa ragazza, sua amica, sua sorella, gli parlava male di questo, male di quello, ma lei cercava di, in qualche modo, di ascoltarle, poi di indirizzare il suo pensiero in modo più utile, ma non c'era niente da fare, lei si continuava a lamentare, sempre di più, ma lei, la mia amica, continuava a dargli tempo, cioè gli continuava a dare energia. E sapete com'è finita? Che un giorno sua sorella ha cominciato a sviluppare paranoia anche nei confronti di lei, e ad attaccarla in modo brutale finché non ha più voluto sentire né vedere. Questa che era una ragazza rimasta sola, non aveva più parenti, aveva solo questa sorella, ha visto sua sorella, gli ha sbattuto la porta in faccia dopo anni e anni che tutti i giorni dedicava del tempo, energia. Ha dedicato più tempo forse a sua sorella che ai suoi figli, come fatica. I suoi figli erano figli normali, carini, quindi no. Questa è la paranoia. La paranoia c'è una decisione di punire, di distruggere l'altro, perché è l'unica alternativa che ha il paranoico, perché l'alternativa è distruggere sé. Il paranoico ha alimentato, non se l'è creato lui, per carità, la paranoia esiste nel mondo, è nell'ego collettivo la paranoia. Allora la paranoia, il nucleo della paranoia è il giudizio interno. Tutti giudichiamo e tutti per questo siamo infelici, in parte. Ricordatevi che ogni volta che siete infelici, ogni volta che provate rabbia, è inutile che andate a cercare chissà dove. Andate a cercare il vostro interno e troverete il giudice. Il quale giudica? E se voi andate fuori, fate il gioco del giudice. E il giudice ha potere su di voi. Avrà sempre potere, finché non lo vedete nella sua vera natura.